tuo figlio, e chi sarìo, chi dunque? Dicesti di tui vivi per tonar le tante ferri che portai nel dittatore, ma tutte qui nel petto io sol fra mille trasbandate al nemico voltando ancor la faccia. Il rio dell'una sube piombò col suo drappello, io caddi, però da forte io caddi. E tu mi sedi ai giorni che li fami, e fin dove che fami e pensati da te, questo ti cava, trono di tu per tu. Non saprei dirlo a me stesso. Pietà, trono pietà. Ma il reggendo farà pro salvo, poco il cuore a me valerava il colpo in alto che tradiferlo dovea. Qual arresto, qual arresto, qual mie fibre a tutto te la fa revolta trivir. Mentre un grido viene dal cielo, mentre un grido viene dal cielo, che mi dice no. Thank you.